sistema ho adottato, il sistema del sincopato. Se una rima non trovo più, non mi sento perso, arrangi il mio verso col diu da da da da du du. Il jazz band me lo suggerì, così che lo impiego ogni dì. Se la rima è in a, in u, in o, in e, finisco col di diu da de. Signorina piccolina ricciolina, è proprio lei che di sera o di mattina turba tutti i sogni miei. Vorrei dirle tante cose, vorrei che sapesse che io desidero un bel giorno di diu da de. Piano piano la mia mano, la sua mano afferrò, con accento alquanto strano disse sì, poi disse no. La sua testa cadde giù come un ramo di bambù e soggiunse da da da da da dammi del tu. Se tu ami l'americana, non è certo la cosa strana se ti dice I love you. Se non sai l'inglese, per essere cortese, rispondi di di diau du du. Le dirai sei tutta per me, se lei ti risponde ok. My boy ti dirà you are for me too, rispondi di diau du du. Signorina piccolina ricciolina, è proprio lei che di sera o di mattina turba tutti i sogni miei. Vorrei dirle tante cose, vorrei che sapesse che io desidero un bel giorno di da de. Piano piano la mia mano, la sua mano afferrò, con accento alquanto strano disse sì, poi disse no. La sua testa cadde giù come un ramo di bambù e soggiunse da da da da da dammi del tu. Piano la mia mano, la sua mano afferrò, con accento alquanto strano disse sì, poi disse no. La sua testa cadde giù come un ramo di bambù e soggiunse da da da da da dammi de tu.